Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Questo è il reading Rosso Vivo dal libro Sia folgorante la fine di Carla Verbano con Alessandro Capponi, di e con Alessandra Magrini, con la collaborazione di Marco Capoccetti Boccia. Quasi ogni notte sogno di essere in strada con Valerio, in un viale alberato. Mezzogiorno, estate, una giornata caldissima. C'è una fontanella e lui si avvicina. Alcune volte è più alto della fontanella, altre più basse, ma sempre per arrivare all'acqua si sporge e poco dopo si scioglie. Valerio diventa liquido e scompare giù, nella bocca della fontanella. Deve essere folgorante, Carla, mi dicono quelli ai quali racconto del libro. Capirai, folgorante alla mia età. Io come inizio ho scelto la cosa più innocua che ci sia, un sogno. Perché quando mi sveglio una mattina da 30 anni voglio solo una cosa, scendere nella bocca della fontanella. È solo una cosa, mi ripeto, mentre mi alzo ogni mattina da 30 anni, sia folgorante la fine di questa storia. Alle 7 ero sveglia, il 22 febbraio del 1980. In genere alle 7:15 ero già in macchina sul ponte delle valli per accompagnare mio marito in ufficio, anche se quel giorno Sardo era rimasto a casa. Facevamo colazione sempre tutti e tre insieme, mentre poteva capitare che a pranzo o a cena Valerio fosse fuori da amici. Valerio quella mattina si era messo una maglietta e i suoi soliti jeans. Erano così aderenti che nelle tasche non c'era spazio. Per questo gli uomini usavano il borsello e i ragazzi le borse di tolfa, come quella che Valerio ha perso nello scontro di Piazza Annibaliano, con dentro la tessera del Ministero dell'Interno e un'agendina coi numeri di telefono dei suoi compagni. L'attuale senatore, Marcello De Angelis, dice che nella borsa, presa da loro di terza posizione, dopo la rissa in piazza trovarono soltanto un goniometro. Ci sono decine di testimonianze di amici di Valerio, che s'era perso tutto. Comunque quella borsa era mia. Valerio e suo padre me l'avevano comprata alla fiera di Roma, proprio il giorno prima dello scontro in piazza Annibaliano. Erano tornati così allegri, il regalo nascosto dietro la schiena. La mattina dopo Valerio me l'ha subito chiesta in prestito. I figli sono così. Ci siamo svegliati, io e mio marito, e sono andata a preparare la colazione. Al mattino c'è una bella luce in questa cucina. Quel giorno era freddo, era inverno, ma il cielo era limpido, c'era il sole. Valerio ha detto che andava a scuola, ma era una bugia. È andato sul prato con alcuni amici. Com'è che si dice quando si saltano le lezioni senza dirlo ai genitori? Quando si fa finta di andare a scuola. Come si dice? Fare sega. Quello hanno fatto. Quell'asino. Durante la colazione ci siamo raccontati le solite cose. La scuola, il lavoro. Poi Valerio si è alzato e ha detto «Ciao, io vado». E via, come sempre, filato, con chissà quale fretta. Questi ragazzi... Io devo avergli gridato le solite raccomandazioni di ogni giorno. Fai il bravo e torna puntuale. In quel momento speravo solo di non trovare traffico. Siamo tornati a casa verso 12:20. L'appartamento non è enorme. Comunque lo spazio è ben distribuito. Entrando di fronte alla porta c'è lo specchio, a sinistra la camera di Valerio, davanti ci sono la nostra camera e di fianco la cucina, il bagno e il salotto. Siamo subito andati in camera a cambiarci. Io ho messo dei jeans e una maglietta di cotone, molto velocemente, per via del fatto che in casa avevo sempre mille cose da fare. Dovevo anche preparare il pranzo. Due o tre passi e sento suonare alla porta. Chi è? Non è che apro subito. Domando sempre chi è. Anche se poi, in effetti, non è che serva un granché chiedere. Risponde un ragazzo. Siamo amici di Valerio. Ma Valerio è a scuola. Signora, ci faccia entrare. Siamo stanchi, abbiamo camminato tanto. Dobbiamo chiedere una cosa a Valerio. Lo possiamo aspettare in casa. Tanto lei ci conosce, siamo amici. Spingo in basso la maniglia, come ho fatto miliardi di altre volte. Apro, sto per dire, prego, accomodatevi. L'assassino si abbassa al passamontagna, mi colpisce, mi fa girare, mi spinge contro il muro e mi mette una mano sulla bocca. Ne vedo tre. Ne sento tre. Ma non so quanti sono. Cosa vogliono? Penso a una rapina, a dei pazzi criminali, a niente, a come liberarmi dalla presa. Sento la voce di mio marito ancora in camera da letto a cambiarsi d'abito. Carla, chi era alla porta? Chi era, dice. Ma questi tre sono qui adesso e i due che non mi sono addosso vanno verso la voce, in camera da letto, da Sardo. Non so se sono armati, ma anche se non lo fossero, Sardo cosa può fare? Provo ad urlare, ma la mano sulla bocca me lo impedisce. Viene fuori solo un lamento strano. Sono schiacciata contro il muro e non posso muovermi. Cerco di dimenarmi, ma non riesco a fare niente. Non riesco neanche a staccarmi da questo muro. All'improvviso sento qualcosa che cade e rimbalza, poi fracasso di oggetti colpiti, di un corpo contro cose. Immagino Sardo nella mia stessa posizione, con la faccia premuta contro una parete. Invece, in camera da letto, non è così che sta andando. In tutti questi anni, storici e giornalisti hanno scritto un sacco di libri sul terrorismo e sul 77. Non ne parliamo. Io ne ho letti un po'. Mi sono appassionata al genere per via del fatto che quella violenza ha toccato anche me. Me come moltissimi del resto. Voglio dire che in quegli anni tutte le persone erano coinvolte, alcune da maledettamente vicino, altre da lontano, altre ancora da lontanissimo, che magari non volevano guardare ma erano costrette a sentire. Il figlio del pensionato è stato ammazzato in mezzo alla strada, o al notaio l'hanno proprio picchiato i fascisti. Veri o falsi che fossero, li sentivamo tutti quei discorsi, in macelleria, in banca, anche dal parrucchiere. Certo, c'era sempre un po' di leggenda dentro i covi, le basi, le mappe con il piano appuntato sopra. Invece questi libri appassionano perché raccontano nei dettagli un pezzo di vita del paese. Tutto, anche le paure della gente normale. Comunque, quel giorno, ecco com'è andata. Sardo vede arrivare quei due e prende ciò che trova vicino, una sedia. Gliela tira contro, ma quelli avanzano lo stesso. Riescono a schivarla. Uno salta addosso a Sardo, poi ci si mettono in due, pugni e calci. Io però sento solo i rumori. A quel punto l'assassino mi porta nella camera da letto senza farmi girare. È come se, proprio ora che ha il volto coperto dal passamontagna, fosse attento a non essere visto. Mio marito è in terra, lo stanno legando con del nastro adesivo per pacchi. Ecco la pistola. Più tardi una mi sembrerà un manganello, per via del fatto che hanno messo un lungo silenziatore, credo artigianale, non come quelli che si vedono in TV nei film polizieschi, sembrava più una fasciatura. Ma di questa pistola lunga me ne sono accorta dopo, mentre ero immobilizzata sul letto e l'uomo che passeggiava nervosamente davanti a noi la impugnava tenendola parallela alle gambe. Lì in camera sul letto mi ci porta uno di questi tre. Io entro nella stanza con una specie di piroetta. L'assassino fa leva sul braccio che ho dietro la schiena, mi spinge e mi fa fare un mezzo giro. Ed ecco la pistola, puntata contro. In quel momento non vedo niente. Ah sì, qualcosa vedo. Il foro per far uscire i proiettili. Quei due hanno già legato Sardo mani e piedi. Ora vengono verso di me e uno solleva il nastro adesivo per mettermelo sulla bocca. È in quel momento che posso ancora parlare. La lapide qui sotto. La lapide dedicata a Valerio. La incendiano di continuo. Oppure la imbrattano, ci fanno sopra le svastiche. I fiori però ci sono sempre. E anche le bandiere, pure quella giallorossa della Roma. Mio marito invece era della Lazio. Io di niente, al derby tenevo per la squadra che andava in svantaggio. Avrei potuto dire qualsiasi cosa in quel momento. Magari inventare una scusa che avrebbe salvato Valerio, prima che quelli mi tappassero la bocca col nastro adesivo. Avrei potuto pronunciarla rapidamente. Valerio non torna a pranzo, vado a un'amica a mangiare. Non mi avrebbero creduto, certo. Lo avrebbero aspettato comunque. Forse qualcuno in quel momento lo stava anche seguendo. Di certo, una bugia non li avrebbe convinti ad andarsene. Ma avrei potuto provare, almeno. E invece ho detto, non lasciate mio marito sul pavimento, gli fa male l'anca. A dire il vero è cominciato tutto molto prima del febbraio 1980. Fu un colpo l'arresto, nell'aprile dell'anno precedente. Aprì la porta. La polizia entrò in casa e andò subito a perquisire la camera di mio figlio. Uno shock. Io me lo immaginavo ad amoreggiare con Manuela, alle partite della Roma, a preparare i compiti in classe e le interrogazioni. E invece... Polizia, siamo qui per suo figlio. Il mio unico figlio Valerio. Valerio Verbano, lui. Quello che voleva fare lo speleologo, il tuffatore, che divideva la spremuta d'arancia in parti perfettamente uguali perché ogni amico doveva avere la stessa identica razione. È lui che cercate, sicuri? Ma non sarà un errore di persona, un'omonimia. Lui a far esplodere bombe artigianali al diserbante in un casolare abbandonato. Ma cosa dite? Ma se stava lì evidentemente era... Ah, era lì per fare qualche esperimento, perché Valerio ha sempre avuto questa passione per la chimica. Ecco, non so se riesco a spiegarmi, ma quella volta mi sono sentita così, appena scesa da Marte. Una marziana che non solo arriva sulla Terra per la prima volta, ma per la prima volta in questo nuovo mondo vede la sua vita com'è diventata all'improvviso. Diserbante, innesco chimico, detonatore. Come? La macchina fotografica era il comando dell'esplosione. Ah, il flash serve proprio a quello, dite? Le lampadine si usano per la detonazione, sicuri? Ma le lampadine del flash della macchina fotografica di mio figlio? Cercate, cercate, frugate pure nella sua vita adesso. Lui dov'è? Ma come in prigione? Ma posso rimanere qui o devo uscire? Va bene, allora vado a prendere una sedia. Vorrei parlare con Valerio, posso? Una pistola. E dov'era? Matricola a brasa? Ovviamente. E perché ovviamente? Matricola in che senso? Matricola universitaria? Matricola militare? No, non può essere. Valerio è ancora un ragazzino. Ma dico, il manuale del prefetto terrorista, non l'avete ancora trovato in camera sua? Bombe a mano, mitragliere, lanciafiamme. Cosa? C'è la foto di Aldo Moro con la scritta I am a freak. Ah, e secondo voi fa ridere? Voi terrestri? Non mi sorprenderei. Uno schedario di cosa? Come un dossier? Una raccolta di incontri, di nomi, di indirizzi. E di chi? Di fascisti. E anche di poliziotti e politici. E chissà di chi altro ancora. Cioè, volete dirmi che negli ultimi 2 anni Valerio ha lavorato a questa schedatura? Cioè, non capisco. Per 2 anni Valerio avrebbe smesso di andare a scuola. Cioè, non credo sia possibile. Ha una buona media, non è mai stato rimandato e ha vinto anche una borsa di studio. E è andato in Inghilterra. Mio marito sardo ne è stato convinto fino alla fine. È stato proprio il dossier il movente dell'omicidio. L'ha detto pure al magistrato. Gliel'ha scritto lui e un'altra volta gliel'abbiamo anche scritto insieme, chiedendo indietro tutto il materiale sequestrato in casa nostra. Del resto, da noi, su Marte, gli avvocati della vittima hanno diritto ad avere una copia di tutto. Ma cosa stavo dicendo? Scusate, mi dispiace. Ogni tanto devo cambiare argomento. Dire cose che non riguardano Valerio. Il caso del suo omicidio. Lo so che sono passati 30 anni. 31 oggi. Ma non è facile lo stesso. La matricola è la targa della pistola. A brasa significa che è stato cancellato il numero di serie. E che quindi è più difficile capire da dove viene il proiettile sparato. Adesso lo so. Ho letto qualcosa in rete. Invece la pistola che ha ammazzato mio figlio l'hanno ritrovata in casa mia, perché quei geni degli assassini si sono dimenticati un po' di tutto. Un berretto di lana, un passamontagna, un guinzaglio e per l'appunto la pistola, che è più o meno come andare a fare una rapina e dimenticare documenti, no? A quanto pare no. Qui da voi sulla Terra, anche se uno fa degli errori tanto macroscopici, rimane comunque impunito, non lo ritrovano. Da noi su Marte, gente così impreparata, non abbiamo difficoltà a beccarla. Oggi quello che si sa con certezza di quella pistola è la provenienza. Hanno fatto la perizia balistica, una 7,65 calibro 38, di un poliziotto, Bruno Raffani, che l'aveva persa il 25 gennaio del 79. L'8 marzo del 1980, appena dopo la morte di Valerio, il giudice istruttore lo convoca. Lui conferma il furto, affermando di aver dimenticato il borsello con l'arma dentro sul tetto della macchina e di non averlo più ritrovato. Io odio i film sulle BR e sul terrorismo rosso e nero, perché scene come questa non ci sono mai. Certo, li mostrano come eroi sbagliati, i protagonisti o gli antagonisti, ma li fanno sempre avventurosi ed eroici, anche quando vogliono metterne in evidenza la pochezza. Li raccontano sempre con quest'aura di fascino, di esattezza rivoluzionaria, di piani studiati nel dettaglio. Invece a me quegli anni sembrano più le comiche. Chiedo scusa. Può apparire irrispettoso verso le vittime, però uccidere qualcuno perché lo si scambia per qualcun altro solo perché il passante ha il cappotto dello stesso colore del bersaglio non è una cosa seria. Da noi poi, quando qualcuno urla «Buona la prima!», gli attori si alzano e si gira un'altra scena. Da voi no. Il mio Valerio in effetti non si è alzato. Prima di essere ucciso non ha urlato. La polizia nel verbale di interrogatorio a Sardo ha scritto il contrario, ma una bugia. Valerio stava per morire. Come poteva urlare? Ha sussurrato qualche parola, tutto qui. Ha detto «Aiuto, mamma. Mamma, aiuto». Sì, ma piano. Senza urlare. Dopo la morte di Valerio la gente mi guardava con sospetto. La radio e la TV avevano detto che mio figlio era un terrorista. BR, avevano detto. La prima volta che sono tornata a fare la spesa erano già passate molte settimane dalla morte di Valerio. Ho chiesto tutto in quantità per tre. Quando me ne sono accorta ero davanti al banco della verdura. Sono rimasta immobile. Qualcuno mi ha dato una spallata per prendere l'insalata. Pronto. Pronto, gruppo proletario organizzato armato. Valerio volevamo solo gambizzarlo per punirlo, visto che era un informatore, un servo della polizia. Io credevo che il collettivo autonomo dell'Archimede fosse una specie di gruppo del liceo. Negli anni hanno cercato di spiegarmi di no, che si diceva autonomo per sottolineare il collegamento con l'autonomia operaia. Certo, magari quella era l'area di riferimento, ma questo non trasforma uno studente in un autonomo. Valerio faceva l'autonomo perché Valerio aveva 16 anni. Ora io non voglio assolverlo, Valerio, ci mancherebbe. Si è già scontato la sua pena in vita. Non ha bisogno di assoluzioni. Però a me quella storia del casolare abbandonato non mi va giù. Io dico solo che quel posto era pieno di cartucce svuotate. Era una specie di poligono dove andavano in molti. Valerio era appena diventato maggiorenne, al contrario degli altri arrestati che se la cavarono con un mese, lui ha avuto una condanna di 2 anni e 8 mesi in primo grado. È uscito dopo 7 mesi e ha perso un anno di scuola. È vero, aveva la pistola in casa, ma quell'arma non aveva mai sparato. I suoi compagni dicono che nei periodi brutti le armi giravano, venivano date a chi rischiava agguati. Valerio aveva appena perso i documenti nella rissa di Piazza Annibaliano. Secondo me, nella storia di mio figlio Valerio Verbano, ammazzato in casa con me e mio marito, legati nella stanza accanto il 22 febbraio del 1980, bisogna fare attenzione alle date. Ad ogni modo, il giorno dell'arresto i poliziotti mi hanno fatto firmare una serie di carte. Sì, fogli su fogli, centinaia di pagine, che avevano sequestrato a mio figlio. Non li ho più visti quei documenti, no? Li ho firmati e poi non me li hanno più restituiti, né in quel momento, né mai. Il giorno dell'omicidio, a fine pomeriggio mi si sono tappate le orecchie. Non sentivo più nulla. Troppi rumori. All'assassino ho aperto io la porta. Aveva detto di essere un amico di Valerio. Mentre andavo ad aprire avrebbe potuto calarsi il passamontagna sul viso e invece non l'ha fatto. Il pianerottolo era deserto. I suoi soci lo avevano già abbassato. Perché ha aspettato che io aprissi per farlo? Ho rivisto quelle scene così tante volte che ho bruciato la pellicola. Prima si è abbassato il passamontagna e poi mi ha colpito. Sono tanti i motivi per i quali dopo 30 anni non ho smesso di cercare il colpevole. E tra i tanti ce n'è uno che è una tortura più crudele delle altre. Quando questo ragazzo è comparso davanti ai miei occhi, non aveva il passamontagna. Potrei ancora identificarlo. Per questo mi mandavano ai processi degli imputati fascisti. Mi facevano mettere anche le parrucche. Prima di morire vorrei che l'assassino suonasse ancora alla mia porta. Vorrei che prima ancora di dirmi buongiorno, mi dicesse «Io sono l'uomo che ha ucciso suo figlio». Lo farei entrare. E gli parlerei. Prima di morire vorrei capire. Adesso ho quasi 86 anni e vorrei conoscere tutto di quell'esecuzione. Lo farei accomodare, sì, l'assassino, gli preparerei un caffè, purché mi spiegasse perché l'hanno ucciso, purché mi raccontasse chi ha deciso che le fotografie scattate da mio figlio erano troppo pericolose, che tutto il lavoro fatto da Valerio sulle versioni nera doveva essere fermato, portato via, distrutto. Quel giorno mi hanno detto che gli dovevano solo parlare, solo chiedere delle cose. Che cosa volevano sapere? Io e mio marito abbiamo visto il modulo della polizia per il sequestro. Erano centinaia di pagine, appunti, indirizzi, date, tante fotografie. Cioè, i giornali lo chiamavano addirittura dossier verbano. È arrivato anche a Mario Amato, l'unico magistrato della Procura di Roma che in quegli anni si sia occupato di fascisti e di NAR. Era un uomo coraggioso. Non si spiegava perché lo Stato, in quegli anni di violenza continua, affidasse solo a lui tutto quel lavoro. Aveva preso il posto di Vittorio Corsio, un altro magistrato ammazzato. Un uomo solo in procura, ad indagare su tutto il terrorismo nero. Beh, da noi su Marte avrebbe avuto la scorta e una squadra di colleghi con sé. In ogni caso, non credo che il dossier preparato da mio figlio gli sia stato troppo utile. Dopo poche settimane l'hanno ucciso. Era una fermata dell'autobus in mezzo alla strada. Aveva appena salutato la famiglia. Sono arrivati in moto e gli hanno sparato. Nell'ottobre del 1980 abbiamo chiesto al giudice una copia del dossier, ma per esigenze di cautela processuale non ce l'hanno mai restituito. Considerando che nell'agosto del 1980 c'era stata la strage di Bologna, ecco che ogni elenco in quei giorni poteva essere prezioso per le indagini. Però, quando Valerio fu arrestato un anno prima, nell'aprile del 79 appunto, quel materiale fu esaminato per il processo e nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma il 25 maggio, quindi ben prima di Bologna, viene scritto: «È impressionante la cura che questo giovane ha messo nel raccogliere nomi e fatti che riguardano elementi di estrema destra. Ma non si è limitato solo a schedare nemici politici, ha raccolto altresì nomi, indirizzi e spesso foto di personaggi politici e di appartenenti alle forze dell'ordine». Ora, io non voglio fare l'elogio di tutta la schedatura fatta da Valerio, ma che fosse un lavoro cospicuo mica lo dico io. Quando abbiamo rivisto il dossier, parecchio tempo dopo, era alto meno di un quaderno. Sono molte le tracce sparite, ricomparse e poi di nuovo svanite nel nulla, oppure ritrovate a metà o in un'altra città. Dico, lasciamo stare l'importanza del reperto, ma perché la pistola era a Palermo? E ancora il passamontagna di uno degli assassini, la stessa pistola del killer, scomparsi, ritrovato, uno sì, l'altro no, come i giochi di magia. Ad avere tutto quel materiale oggi, con le tecniche investigative che ci sono, forse si potrebbe risalire ai colpevoli, chissà. Non c'è mai stato un processo. I tre che hanno bussato alla mia porta come amici di Valerio e che invece hanno distrutto le nostre vite sono sempre rimasti liberi, per quello che ne so. Ma io ho capito da tempo che non sarebbe stato affidandomi alla giustizia che avrei ottenuto verità, e neanche affidandomi alla pietas umana. Due giorni dopo l'omicidio, attaccato al portone, ho trovato un biglietto. Evviva, uno di meno. Mi consola solo una cosa. Me ne andrò senza dover dire nemmeno un grazie. In 30 anni non mi hanno mai mandato neanche uno psicologo. Niente. Non fosse stato per il giornalista Luca Telese, che mi ha avvisato, non avrei avuto nemmeno i soldi dell'adeguamento che lo Stato deve ai familiari delle vittime. Ciò che mi spettava, io ho dovuto farlo chiedere dall'avvocato. Mi vengono in mente certe cose. Non so se posso dirle. Non so se siano importanti. Ma vorrei raccontarle. Ogni volta che ricevo una telefonata muta, capita spesso, penso che dall'altra parte potrebbe esserci l'assassino di mio figlio. Ogni volta che vado al cinema, penso che seduto nel buio, magari al mio fianco, possa esserci lui. È una strana sensazione, speranza mista a terrore. Vivo così, ma spesso cerco di reagire. A 83 anni ho fatto un corso di informatica, ho imparato ad usare il computer, a navigare in internet. Cerco soprattutto tracce di Valerio e dei suoi compagni. Cerco gli errori commessi dai suoi assassini, contatti con persone che li conoscono, che sanno. Nuclei armati rivoluzionari, comandi Thor, Balder, Tyr. Dalla fine della guerra ad oggi, mai un periodo di più fulgente splendore si è aperto per il movimento fascista. La fine di un regime putrescente e marcio, frutto del crepuscolo del capitalismo mondiale, la crisi dei marxisti, la che del regime, sia quelli legali al ghetto nel porcile democratico parlamentare, sia quelli illegali. In riflusso in galera, aprono più radiose che mai le vie per l'azione, avvicinando la prospettiva sempre più attuale della rivoluzione nazionalsociale, anticapitalista, antimarxista. Perché i satrapi del regime dunque si meravigliano? Se il martello di Thor ha colpito a Monte Sacro, a Roteato e a Cinecittà? È chiaro che altri 1000 martelli sono pronti a fare altrettanto. Sgomberare la strada dai piccoli vermi che resistono al riflusso, poi sgomberarla dalle serpi rossi più grandi. Poi sgomberarla dai titolari effettivi del regime. Questa è la via. Se nel cammino qualche mollusco in divisa ci rimetterà la pelle, ciò servirà a far capire a chi di dovere che è meglio non intralciare la strada. Ho già scritto a molte persone che in quegli anni orrendi sono state protagoniste della violenza armata di destra. Internet è incredibile. Riesce a raggiungere chiunque, a sapere cosa hanno fatto l'altro ieri. È usando le mail che ho contattato quelli che all'epoca si dicevano fascisti. Ho letto anche quello che scrivevano in internet, sui libri. In alcuni volantini citano Thor. Quando Valerio era ragazzino era il personaggio di un fumetto. Aveva il martello. Poi ho scoperto essere una divinità nordica. E allora mi sono chiesta, ma i fascisti non erano cattolici? Ne ho parlato con un amico di Valerio, che mi ha portato i 5 scritti morali di Umberto Eco. E in uno di questi dice che il fascismo è una cozzaglia di cose prese da dottrine politiche diverse o altre distorte o adattate al bisogno del momento. Io ho sempre odiato le citazioni, ma forse sono necessarie quando devo parlare di politica, argomento di cui mi sono occupata solo in quanto causa dell'assassino di mio figlio. Perché prima, negli anni 50, a Roma, io, giovane donna innamorata, pensavo solo ai vestiti e al futuro. E anche dopo, negli anni 60 e 70, con una famiglia da mandare avanti, pensavo alla casa, a Valerio, a mio marito, ma che politica! Io c'avevo altro da fare. Mio marito era iscritto al partito, al PC, che per come lo vedevo io erano le salsicce cucinate da Valerio alla festa dell'unità e una tessera da rinnovare ogni anno. Comunque, con internet ho cercato e spesso ho trovato persone. Alcune volte ho usato anche i metodi tradizionali. All'ex-NAR Belsito, per esempio, ho scritto una lettera di carta dopo aver scoperto in rete dove era recluso. In ogni caso non mi ha mai risposto. Così non ho nessuno da ringraziare. Sia chiaro, le persone comuni sì, mi hanno aiutato. Tanti, tutti gli amici di Valerio, i compagni, ogni volta che mi fanno visita mi scaldano il cuore. Ma non sono gli unici. Mi viene in mente uno studente di storia contemporanea, Marco Capuccetti Boccia, che ha scritto una tesi su Valerio e si è laureato con il massimo dei voti. Leggendola ho scoperto cose di mio figlio che prima non sapevo e non immaginavo. Tra le persone che mi hanno aiutata mi viene in mente anche Giampaolo Mattei, un omone che 4 volte me, non esagero. I suoi fratelli sono morti nel rogo di Primavalle. Un fuoco ha appiccato in una casa con dentro una famiglia. A volte mi viene a trovare. Parliamo un po'. Ma mi viene anche in mente il poliziotto che mi ha insegnato a sparare. È accaduto 20 anni fa. Mio marito era morto e io continuavo a ricevere minacce, cosa che accade ancora adesso, quasi regolarmente. Non mi importa. Cosa stavo dicendo? Ah, del poliziotto. Sì, avevo 65 anni e al corso per porto d'armi ero l'unica donna. Ho fatto tutto, prima la teoria e poi la pratica. Andavo a sparare al poligono a Ponte Milvio. Quel poliziotto mi ha insegnato bene. Smontare la pistola, pulirla, montarla, caricarla. È una cosa da fare ogni giorno se si ha una pistola. Ho una calibro 38. Dove la tengo non lo dico. Non è prudente. Ma voglio che l'assassino sappia che sono armata. Quando suonerà alla mia porta deve sapere che non si tratta di una visita di cortesia. Se viene deve dirmi tutto. Non si preoccupi per la mia età. Non si preoccupi delle mie insufficienti nozioni di politica. Capirò in fretta. Tutti mi dicono come sei lucida. E io so che è un po' come se mi dicessero la tua mente non è vecchia, ma il resto sì. Ma per fortuna posso ancora sapere, fare domande e cercare risposte. Anche durante l'incontro con l'assassino non ci vorrà molto tempo. Capisco al volo. Ho una specie di intuito. Poco dopo che è morto Valerio è venuto a casa nostra Nazareno De Angelis, detto Nanni. È venuto a farsi vedere da noi, cioè lui che era tra i sospettati, anzi diciamo pure che era il sospettato, veniva a farsi guardare in faccia da me e mio marito. Avrebbe potuto essere il mandante dell'assassinio, ma io dico che non è lui che ha voluto Valerio morto. Certo, tra loro, tra Valerio e Nanni, c'era stato lo scontro in piazza Annibaliano, è vero. E poi parlo di cose che una madre scopre solo dopo, come si vede. Ma non è che potevo lavarlo io a Valerio, andare con lui sotto la doccia. Mio figlio i lividi evidentemente li teneva ben nascosti. In ogni caso, per capire davvero quello scontro, bisognerebbe conoscere non solo quegli anni, ma questa parte di Roma, il quadrante nord-est, e i morti che ci sono stati, di destra, di sinistra, giudici, poliziotti. La divisione geografica della zona è semplice, una parte nera e una parte rossa, un ponte e nient'altro nel mezzo. Nanni De Angelis ha attraversato quel ponte senza armi, accompagnato dal padre. Non è lui quello che cerco. Sensazione. Non fa comodo ai compagni, né promossa dal governo. Guai se i nostri camerati avranno conseguenze dirette o indirette. Quel giorno, 30 anni fa, quando sono venuti ad ammazzare Valerio, ci hanno detto che gli dovevano solo parlare. Ma io sapevo che stavano mentendo. Ero immobilizzata sul letto e pregavo che Valerio non tornasse da scuola. Speravo che cadesse dalla Vespa, che lo portassero in ospedale. Che pensieri può fare una madre, eh? Se ho deciso di scrivere questo libro è per raccontare cose che spero condurranno l'assassino da me. Un'illusione, sì. Ma posso comunque aiutare la palestra popolare Valerio Verbano. Questo posso farlo. Sono anche certa che conoscere la verità non sia l'unica cosa che voglio da quell'uomo. In casa mia sono venuti in 3, ma io dico un uomo perché solo uno verrà da me. Forse sembro pazza. Quale altra cosa voglio dall'assassino di mio figlio? Non posso dirlo ora. Ma comunque avrò pure diritto a una mia visione, a una speranza. No? Ne ho diritto? Ultimamente a Roma continua a piovere. Non è spiegabile per questa città un clima così londinese. Sarà questo che mi mette di cattivo umore. E invece no, lo so io che cos'è. Sono tutte le cose che scopro di quegli anni di terrore e che non mi riesco a spiegare. Ci sono fatti talmente italiani dentro quegli anni, quasi comici. Ieri sera stavo leggendo un libro bellissimo, anche se un po' spietato. A mano armata, l'ha scritto un giornalista che si chiama Giovanni Bianconi. Racconta la vita di Giuseppe Valerio Fioravanti, il capo dei NAR. Mio marito era convinto che fosse lui l'assassino di Valerio. Io comunque non lo chiamo Giusva, perché è un nomignolo simpatico, quasi affascinante, da supereroe. È pericoloso dare nomi simili. I ragazzini ci mettono niente a farne un esempio, a lasciarsi affascinare. Ecco, sto facendo i discorsi da nonnina di Marte. Non è vero? Solo che la vecchia nonnina ha letto nel libro di Bianconi un fatto che l'ha lasciata senza parole. Non c'è sangue o violenza, è semplicemente un episodio di vita comune. Ricevere la cartolina per fare gli scrutatori. È capitato a molti, anche a Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Elezioni regionali, cartolina a casa di lei e loro diventano presidente e segretario di seggio. Questa è la scheda, questa è la matita, cabina 1. Tutte e due nello stesso seggio. Ma il punto è un altro. Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, due tra i terroristi più ricercati d'Italia, svolgevano quel lavoro con i loro veri nomi e nella stanza accanto c'erano i carabinieri. Fa ridere? E invece no. Non fa ridere. E il perché nelle date? Perché bisogna guardare le storie come queste. Quelle elezioni regionali si sono svolte l'8 giugno del 1980. Valerio era appena morto e Mambro e Fioravanti, con i loro veri nomi, in un seggio della Repubblica, i carabinieri a pochi metri sono a fare gli scrutatori. Ma allora viene da chiedersi, ma perché hanno rischiato tanto? Forse perché là, che avevano già deciso tutto, ogni particolare del piano, gli serviva un alibi. Era già stato deciso che il killer di Mauro Amato sarebbe stato Gilberto Cavallini e Fioravanti e Mambro dovevano solo aspettare e un seggio elettorale coi carabinieri vicino era un alibi perfetto. Farebbe anche ridere se non fosse che il 23 giugno i NAR ammazzano il giudice. Ma dico, qualcuno è andato a spiegarlo ai figli, alla moglie, alla mamma di Mauro Amato che se avessero arrestato quel giorno Fioravanti e Mambro il giudice sarebbe ancora vivo? Oggi l'umore è come il cielo, pieno di nuvole. Ma che diamine, io sono sicura che nessuno è andato a raccontare questo episodio agli Amato, a dire alla moglie che lo stesso Stato che aveva mandato suo marito sul fronte del terrorismo permetteva agli assassini di fare gli scrutatori, perché da noi su Marte li avrebbero già arrestati. Ah, dico, tra l'altro ad agosto c'era stata la strage di Bologna. Qualcuno si è scusato con i parenti delle vittime di Bologna e con tutti gli italiani? Non aveva la scorta Amato e neanche Occorzio, pure lui è stato ammazzato per strada, qui vicino peraltro. Sarà pure tagliato i capelli il giorno prima. Doveva andare in vacanza al mare. Erano senza scorta, l'uno prima e l'altro poi. Ricapitoliamo. Muore un giudice e al suo posto viene preso un altro giudice, Amato. In anni nei quali gli omicidi sono quasi quotidiani, il successore di uno ai quali hanno sparato 30 colpi viene lasciato solo e senza scorta. Da voi sulla terra va così. Vivo a Montesacro da quando Valerio aveva 7 anni, che poi a Roma basta superare la batteria nomentana che dicono tutti di abitare a Montesacro. Andiamo a fare una passeggiata, va, che è un bel pomeriggio di sole. C'è il Ponte delle Valli, in quegli anni separava il bene dal male, a seconda di quale fosse il punto d'osservazione, si intende. Trieste, Salario, Nomentano, Montesacro, un quadrilatero. È un bel giro da fare, istruttivo, anche se questo è un tour che non fanno fare ai turisti e nemmeno agli studenti. Su Marte invece portiamo i nostri ragazzi sui luoghi della guerra civile. A ben pensare questo giro mette paura, perché dai luoghi si può togliere il sangue, si possono cancellare le prove, ma quello che è accaduto rimane. Da quando ho capito che per trovare l'assassino di mio figlio dovevo fare da sola, ho dovuto studiare, leggere, imparare e ricordare, purtroppo. Sia chiaro, io gli anni del terrorismo rosso e nero non li voglio demonizzare né tantomeno esaltare. Non voglio certo mettermi a dare voti. Non io, grazie. Io cerco l'assassino di mio figlio e per trovarlo sono stata costretta a informarmi, a fare un viaggio in quel terrore. Che altro potevo fare? Per 25 anni dal giorno della morte di Valerio non ho sentito nessun politico, nessuna istituzione, né una telefonata né una visita, niente. Vabbè, lasciamo stare, va. Iniziamo la gita turistica da questa parte di Roma. Ecco il Ponte delle Valli, attraversa l'Aniene. Superarlo all'epoca voleva dire cambiare il mondo. Per dire solo un dato, a parte i morti in due anni, tra il 78 e il 79, diciamo tra Montesacro e Talenti, ci sono stati 42 attentati dinamitardi a edifici, 87 aggressioni, 12 incendi ad automobili o altri mezzi di trasporto. E io dovevo essere un'ingenua per essere convinta che la guerra fosse finita. Sì, quella contro i tedeschi. Era il 10 luglio del 1976, un sabato, pochi giorni ancora, e il giudice avrebbe portato la famiglia al mare. Anche se non è un magistrato che si nasconde, è senza scorta, ha 47 anni. Agli inizi degli anni 80 istruisce i processi contro Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Anche di fronte a tutte le minacce che gli arrivano non si ferma. Lo ammazzano, in via del Giuba, sabato mattina. Occorso è appena uscito di casa, sale sulla 124, mette in moto, parte. La corsa è breve, due terroristi lo affrontano armati di mitra, sparano una trentina di proiettili. Occorso muore praticamente sul colpo. La prima raffica lo colpisce ovunque, testa, viso, collo, braccia e fianchi. In casa c'è il figlio, Eugenio, che sente gli spari, scende e vede suo padre così, la macchina sulle strisce pedonali, la portiera aperta e l'uomo quasi sul punto di scendere, la testa e una spalla appoggiata alla carrozzeria. Forse ha cercato di scappare, chissà. E perché l'hanno ucciso? Il volantino che viene ritrovato nell'auto dice che Occorso è un boia, un servo dello Stato, che si è accanito contro Ordine Nuovo e per questo è stata emessa una sentenza di morte. Occorso indagava sul piano solo ed era venuto a conoscenza di alcuni segreti del SIFAR, Servizio Informazioni Forze Armate. Il magistrato stava lavorando su alcune prove emerse nei lavori parlamentari sulla P2, che avrebbero potuto svelare collegamenti tra logge massoniche e terrorismo nero. Vabbè, per dire una cosa che magari non ha alcuna importanza, Sergio Zavoli, nella Notte della Repubblica, racconta che Licio Gelli era nell'anticamera di Occorso pochi giorni prima dell'omicidio. Forse era arrivato troppo vicino al cervello che organizzava e finanziava il neofascismo attraverso la malavita. In ogni caso, Occorso ha pagato con la vita. In questa zona, solo tra gli omicidi di Occorso e di Nella, cioè tra il 1976 e il 1983, ci sono stati 7 morti, escludendo poi gli errori di persona, i padri che muoiono di infarto perché vedono i figli aggrediti. Sicuramente avrò dimenticato molto, forse altre vittime di questa parte di Roma. Di certo le aggressioni, le porte delle case bruciate, le risse, sono troppo per essere ricordate a memoria. Quando ho cominciato a studiare per scovare i killer di Valerio, mi sembrava incredibile che ci fossero stati tutti questi morti, tutta questa violenza proprio nel quadrante di Roma nel quale vivevo. Mi sembra incredibile che la gente di qui non si fosse impaurita fin dall'inizio, dalle prime vittime, dai primi spari. Ma poi a pensarci bene io ero tra loro, e anch'io avevo saputo, rimosso e continuato a pensare ai fatti miei. All'inizio degli anni 70 alcuni pomeriggi giocavo a carte con delle amiche, i bambini ci scorrazzavano sotto al tavolo. Quando è morto Mario Amato, io non avevo ancora capito che lui era la mia unica possibilità di trovare l'assassino di mio figlio. Non le sapevo certe cose allora, non le immaginavo neanche. Sarebbero passati anni prima che io mi rendessi conto cos'era stato quel magistrato per me e per l'Italia e di quello che avrebbe potuto essere se lo Stato non l'avesse prima abbandonato nel suo lavoro di ogni giorno e poi lasciato ammazzare. È ad Amato che arriva il dossier sulla destra preparata da mio figlio Valerio. Purtroppo non gli hanno concesso molto tempo per lavorarci. La sua vita si intreccia con quella di Giuseppe Valerio Fioravanti e non solo perché è il capo dei NAR. Sicuramente Amato aveva paura. Anch'io ne ho avuta quando l'anno scorso ho invitato Fioravanti a casa mia. Sia lui sia Francesca Mambro mi hanno spaventata. Dico, ora, visto che in passato si è assunto la responsabilità di tanti omicidi, si dice che sia credibile quando si professa innocente su Bologna. Il discorso comunque è complesso e forse troppo per me. Ma io so che Fioravanti diceva di essere innocente pure per l'omicidio di Amato. Invece era la mente del gruppo. A mentire, l'ha già fatto. Io di Bologna non lo so, ma anche quando sono venuti in casa mia l'anno scorso lo so che Fioravanti e Mambro mi hanno mentito. Ho mandato loro delle email, ho spiegato che stavo cercando l'assassino di Valerio e che parlare con loro poteva essere utile per me, per tentare di capire. Mi hanno risposto, hanno accettato, li ho accolti in casa. Ma dell'assassino di mio figlio hanno detto che forse era stato qualcuno della banda della Magnana. Figurarsi, a Roma quando serve un capro espiatorio, un colpevole generico, introvabili, ecco che spunta fuori la banda della Magnana. Anche ipotizzando che da quel mondo provengano gli esecutori materiali, non è la criminalità organizzata il mandante dell'assassinio. Comunque mio marito, nei giorni successivi alla morte di nostro figlio, era convinto che fosse proprio lui il colpevole Fioravanti, quindi si capirà un poco del mio livore, eh? Me ne scuso. Per me, adesso, tanti anni dopo, è sacrosanto parlare del giudice amato, di quell'uomo. Ma non perché fosse considerato dai Narli inquisitore dei fascisti. Non mi riguarda e non mi interessa comprendere come fosse visto dai terroristi. Voglio capire come veniva visto dallo Stato, che serviva dall'età di 33 anni. Era sposato con Giuliana, padre di due figli. Lavorava in una piccola stanza al quarto piano del Palazzo di Giustizia. Aveva gli occhi chiari chiari, quasi trasparenti. Lo Stato che serviva lo ha tradito. Il 23 maggio nel 1980 Francesco Cossiga diceva: per quanto riguarda l'attività eversiva di destra, nel corso del semestre si è registrata una flessione quantitativa del fenomeno. A dicembre del 1980 Arnaldo Forlani scrive: per quanto riguarda l'estremismo e l'eversione di destra si è registrato un incremento notevole del fenomeno. Dunque per il primo c'è una flessione, per il secondo un incremento. Cos'è cambiato tra la relazione di Cossiga e Forlani? Sono passati 6 mesi. Certo, 6 mesi importanti. C'era stata la strage di Bologna e l'omicidio del giudice Mario Amato. Ma dico, servivano i servizi segreti, gli atti parlamentari e i presidenti del Consiglio per dire tutto questo. Da noi su Marte passa la cronaca dei giornali. Comunque, Mario Amato, in quei 6 mesi, sa benissimo di rischiare la vita. Si sente ostacolato, oltre che isolato. Anche all'interno della procura i suoi rapporti non sono proprio idilliaci. Al 6° piano dello stesso palazzo lavora il giudice Antonio Librandi. Il figlio Alessandro, nonostante il padre continui a difenderlo, ha giurato di uccidere Amato. E non è l'unico. Tutti i fascisti lo vogliono morto. Ma non solo perché lo accusano di aver fatto picchiare dei camerati e di aver firmato ordini di cattura basati su teoremi e fantasia. C'è anche un significato politico. I NAR vogliono dimostrare al mondo che i neri non sono complici della repressione di Stato. Per questo puntano ad ammazzare una toga. Non si discute nemmeno per la scelta. Tocca a Mario Amato, il persecutore dei fascisti. E Amato forse lo sa. Lo immagino io, eh? Nessuno me l'ha detto. Abitava in via Gran Paradiso. L'hanno ucciso il 23 giugno del 1980. Ma l'hanno pedinato per un pezzo. È un lunedì, alle 8 del mattino fa già caldo. Il giudice saluta tutti e si avvia a piedi alla fermata del 391 a Viale Ionio. C'è una cosa che mi è venuta in mente di Amato e che voglio dire subito prima di dimenticarla. È un particolare, forse non importante per il mondo, ma per me sì. Quando gli hanno sparato, Amato cade in terra. I killer scappano e dopo un po' arrivano tutti, polizia, giornalisti e fotografi. All'epoca non era come adesso, le zone dei delitti non venivano transennate. I fotografi arrivavano e scattavano le foto ai cadaveri quasi in primo piano. Anche quando hanno ammazzato Valerio, uno è riuscito a fotografarlo sulla barella, prima di entrare all'ospedale. Invece quando muore il giudice, nelle foto sui giornali c'è il cadavere in terra, inquadrato dai piedi. Lo so che non è importante, che nessuno quasi lo ha notato, ma quel giudice, solo, ostacolato, abbandonato, minacciato e senza scorta, stava andando al lavoro con l'autobus e con le suole delle scarpe così consumate che in alcuni punti erano bucate. È questo che mi commuove di quell'uomo. Ora ho voglia di stare un poco sola con i miei pensieri, poi mi rimetto a lavorare, controllo il blog, magari qualcuno mi ha scritto. Qualcuno che vuole parlare? Credo di no, ma io controllo lo stesso. Sono di umore strano adesso. Mario Amato, tanti anni fa, era la mia unica possibilità di ritrovare gli assassini di mio figlio. Oggi è domenica. C'è così tanto silenzio. Mi fa male. Non mi ci abituo. Una mattina mi sono svegliata e ho chiamato gli amici di Valerio, i più intimi. Ho detto loro di portare via ogni cosa, vestiti, dischi, libri. Ho lasciato prendere tutto a quelli che lo hanno amato. Hanno impiegato 3 giorni. Valerio era così pieno di cose, conservava sempre ciò che gli dava un'emozione. Lo so, è stata una scelta istintiva. A volte mi pento. Sarebbe bello avere ancora qualcosa con me tra tutto quello che è stato suo. Le sue lettere, per esempio, quelle che ha ricevuto. A me lettere non ne ha mai scritte. A me Valerio nell'ultimo anno al massimo chiedeva soldi. Parlava così poco con me. Per tanti anni, quasi tutti quelli della sua breve vita, è stato diverso. Eravamo complici. Comunque quella mattina, pochi giorni dopo l'omicidio ho fatto portare via tutto. Se avessimo fatto diversamente, io e mio marito saremmo impazziti. Dopo la morte di Valerio, mio marito è andato in pensione. E poi è morto. In poco tempo. O almeno così è sembrato a me. Io nel 1982 ho avuto il cancro. Mi hanno salvata al policlinico. Sardo era molto restio ad accettare l'attenzione del mondo. Anche quando Valerio morì, noi, in quanto familiari delle vittime, avevamo diritto a 100 milioni di lire. Ma Sardo non voleva prenderli. Non c'era verso di convincerlo. Poi una sera ho cambiato strategia. Li daremo a chi ci aiuterà a trovare gli assassini di nostro figlio. Ma in tutti quegli anni, i governi che si sono succeduti, di centro, di destra e di sinistra, evidentemente volevano solo dimenticare. Noi eravamo il ricordo da rimuovere, tutto qui. Dopo l'omicidio, il nostro telefono non la smetteva mai di squillare. Erano gli amici, certo, ma anche i nemici. Li uccideremo, ora tocca a voi due. Bruceremo quella casa con voi due dentro. Una mattina sono uscita e ho comprato un estintore. È ancora lì, all'ingresso. Per non pensare alla morte di nostro figlio, con mio marito a volte andavamo a fare una passeggiata. Lo convincevo a muoversi, a reagire un po'. Una volta in strada un ragazzo chiamò un amico a voce alta. «Valerio!» Mio marito scoppiò a piangere e tornammo subito a casa. Io e Sardo ci sposammo in Campidoglio. Mia mamma voleva che mi sposassi in chiesa, ma Sardo non era d'accordo. E a me non importava, c'era solo la gioia di sposarmi con un uomo che amavo. Io ero un peperino in quegli anni, ma lui sapeva essere paziente con me. Mi ricordo quando abbiamo fatto il trasloco, era agosto. Io in casa mettevo sempre i pantaloncini. Una volta per andare a mangiare ho dimenticato di cambiarmi, che faceva caldo. Da non credere. Mi guardavano tutti dentro la trattoria. Davo scandalo. Io scherzavo. Dicevo a Sardo, io son del nord, son mica come voi. E ridevamo. Comunque il vizio di vestire in modo originale e senza badare troppo a quello che dicono gli altri m'è rimasto. Certo, meno di allora, di quando ero una ragazza sull'orlo delle nozze, con davanti una vita che immaginavo completamente felice. Ma i sogni sono così, no? A volte mentono. C'era anche Valerio il giorno del matrimonio. Aveva un anno. Valerio nacque il 25 febbraio del 1961. Il giorno del battesimo di Valerio mi ricordo che la madrina era vestita in guanti bianchi, perle, cappotto di tre quarti blu. Fu una bella festa. Ma poi a pensare a Valerio, mi viene in mente che il giorno del suo funerale era anche quello del suo compleanno. Avrebbe compiuto 19 anni. Io sono sempre stata credente. Ma dopo quello che è successo, la forza di credere mi è scappata via. Immagino che adesso dovrò raccontare l'omicidio di Valerio, no? È arrivato il momento. Avevo solo cominciato. Siamo bloccati sul letto matrimoniale, io e mio marito. Ci hanno legato tutto tranne gli occhi e le orecchie. Il tipo ha un paio di jeans, un giaccone blu. Sì, mi pare il passamontagna celeste e la pistola in pugno. Cammina intorno al letto, passeggia avanti e indietro, a volte si blocca e torna indietro, non fa tutto il giro. La canna della pistola è parallela alle gambe, la impugna con la destra. A intervalli irregolari si ferma davanti a me e mi dice di stare buona. Un'altra volta viene verso di me, quasi di corsa. Gli dice che loro a Valerio gli devono solo parlare. Mi mette la pistola davanti alla faccia, la vedo bene. Quell'arnese trema e non la smette. Mi sfiora, si allontana. Una pistola in preda al panico. Si apre la porta e arriva un altro tipo con il volto coperto. Ci guarda, si gira verso il suo socio e gli chiede «Fratello, tutto bene?» Il mio vicino di casa, Gino De Angelis, si lamentava sempre per i soldi. Veniva con la scusa di fumare una sigaretta che in casa sua non poteva e subito cominciava il lamento. «Quando è che potremo riscattare questi appartamenti? Spendo un sacco di soldi per le medicine di mio figlio!» Gino De Angelis faceva l'impiegato al ministero, il ragioniere. Con quei soldi ci dovevano vivere in tre. E comunque la sigaretta era una scusa. Si piazzava qui. Mi piaceva parlare con mio marito. Io sono legata sul letto. Spero che Valerio non arrivi. Che cada dalla vespa. Che qualcuno non si fermi al rosso e lo tamponi. Immagino la scena. La vespetta che cade di lato. Prego che mio figlio in quel momento abbia un incidente. Con la mente faccio tutto il tragitto. Confido in ogni incrocio. Solamente dopo scoprirò che mio figlio non era neanche andato a scuola. Era andato al parco, quindi non era su quella strada. E poi mi sembra impossibile essere così fortunata, che Valerio proprio quel giorno si fracassi qualche costola in un incidente. Allora provo a rivolgermi al tipo che passeggia nervosamente. E che mi spari pure, penso. Ho il nastro adesivo sulla bocca, quello largo per i pacchi. Escono solo mugugni, ma continuo. Uso il tono della voce per convincerlo. Lo alzo e lo riabbasso, come se mi sia venuta in mente una cosa importante. Cerco di lasciargli capire che questa cosa lui la deve assolutamente sapere. Lui si ferma, mi guarda e poi riprende a camminare. Mi metto a strillare con quanta forza ho, ma il tipo continua a passeggiare. Non viene neanche a dirmi di stare buona. Quando crollo, accanto a me c'è Sardo, legato con la faccia alla parete, silenzioso, immobile. Nel luglio del 2009 qui sono venuti i ladri. Vengono spesso in questa zona. Così adesso ho messo la porta blindata. Comunque, per i ladri ho affisso un cartello e là sullo specchio. Do loro delle indicazioni perché mi dà un fastidio quando mi creano un subbuglio in casa. L'ho già detto che quando parlo di certe cose poi dopo un po' mi distraggo e mi metto a raccontare di altro. Secondo me deve essere una tecnica di difesa. Cioè il mio cervello crede che io abbia smesso. Lascia aperta quella porta, poi io rientro nel discorso. Io sono legata sul letto e mi metto a dare colpi col sedere sul materasso per spostarmi e cadere giù. Un altro tentativo disperato di quel giorno. Ne ho una collezione. A un certo punto cerco anche di fare dei bisogni per vedere se almeno mi accompagnano in bagno. Sono lì e penso saranno costretti a farmi alzare, ma non c'è verso. Mi viene in mente che sono andata in bagno non appena tornata a casa, quindi adesso solo le mutande bagnate, poco a poco. Questo mi ero dimenticato di raccontarlo prima. Poi non sta bene che una signora dica certe cose, no? Che poi se mi avessero fatto alzare per andare in bagno, chissà cosa avrei pensato di fare. Comunque in bagno non mi portano. Rimango legata. E per la prima volta, in quel momento, penso che tutto quello che sta accadendo è colpa mia. Sono qui, pancia sul materasso. Tento di girarmi. Do strattoni a mani legate. Poi fisso i pugni sul materasso sotto la mia pancia e spingo. Finalmente riesco a sollevarmi e a mettermi in ginocchio. Quello che cammina nervosamente si avvicina. Mi preme una mano sulla schiena. Ed ecco che sono di nuovo al punto di partenza. Con la faccia sul materasso. E col pensiero vado anche più giù. A quello che potevo fare. Perché qualunque cosa fosse avrei dovuta farla prima. Penso alla porta che ho aperto io e che non avrei dovuto aprire. C'era lo spioncino, dovevo guardare lì dentro. Forse per questo l'assassino non ha abbassato il passamontagna prima che aprissi. Temeva che avessi controllato prima di aprire la porta. Il secondo tipo con il passamontagna entra e chiede a me Sardo: a che ora torna Valerio? Cioè dico, noi abbiamo il nastro adesivo sulla bocca. Glielo indico con gli occhi. Se avessi avuto la bocca libera, gli avrei pure fatto notare che ce l'avevano messo loro. Non ve muovete, se no finisce male. Parlano romanesco, frugano nella stanza di Valerio, spostano le cose. All'improvviso, realizzo. Stanno lì, all'ingresso, perché aspettano Valerio. Mi viene il panico. A questo punto ci sono momenti che non ricordo bene. Scalcio, urlo. Mi tengono ferma. Dicono che gli vogliono solo parlare. Ha la pistola in mano, trema. Il panico mi è preso perché avevo cercato di calcolare il tempo trascorso. Avevo preso ad associare le cose che capitavano qui a quello che stava facendo Valerio. C'era un unico orologio e due scene. In una noi coi terroristi dentro casa e Valerio a scuola. Noi mentre ci legano, Valerio fuori scuola. Noi sul letto e Valerio in viaggio. In base al tragitto che avevo fatto io mentalmente, doveva essere quasi arrivato. Ho immaginato Valerio all'angolo di via Pantelleria, al garage dove lascia la Vespa prima di salire. Lo vedevo proprio lì con i jeans e la vespetta. Per questo davo calci prima e ho perso la testa. Mi calmo quando mi accorgo del silenzio che c'è intorno. Nessun rumore di ascensore o di passi. Ascolto ancora per esserne sicura. Per quanto tempo siamo stati legati sul letto non lo so. L'ho ricostruito dopo, intorno ai 50 minuti. Valerio da scuola esce all'1:25 e torna a casa più o meno all'1:40. In genere in un quarto d'ora è qui. Siccome quel giorno ha fatto sega, ecco che arriva puntualissimo. Il signor Gino De Angelis, quello del piano di sopra, aveva questo figlio che stava sempre male, spendeva un sacco di soldi per le medicine. Quel giorno Gino va al lavoro, ma tornando a casa si ferma in farmacia. Non so quale farmacia, di certo lì perde un po' di tempo. In genere per il pranzo tornava insieme a Valerio. Si incontravano spesso in ascensore. Invece quel giorno, mentre mio figlio infila le chiavi nella toppa, il signor De Angelis è ancora sulla strada di casa, sul sedile del passeggero, ha il sacchetto della farmacia. L'uomo col passamontagna celeste sente le mandate e va subito verso l'ingresso. Uscendo, chiude la porta della camera. In questo quartiere, fino a qualche anno fa, andavo a fare le iniezioni e dopo che ho smesso di lavorare ho continuato a fare le iniezioni ai miei vicini. Ma non lo facevo per soldi. Però tutti mi mandavano chi ha una pianta, chi del formaggio, lasagne. E dicevano, è per Valerio, perché eravamo vicini di vita, quasi tutti. Quando entra Valerio viene subito aggredito. Ma era cintura nera di judo e karate, si sa difendere. Le cinture le ha prese una sua amica dopo che Valerio è morto. Non so cos'è successo quando Valerio è rientrato. Ero legata in camera. Ho solamente sentito una colluttazione, grida soffocate, lamenti, urla interrotte di colpo, rumore di cose sbattute, colpite, lo specchio in pezzi, fracasso di schegge sul pavimento, ancora un urlo interrotto. E poi il silenzio. Più o meno in quel momento, alla fine di via Montebianco, il signor De Angelis iniziava la manovra di parcheggio. Valerio è riuscito a disarmarne uno, gli ha fatto volare la pistola. Anche il passamontagna e un berrettino che ritroverà la polizia deve avergli tolti. Mi rotolo sul letto fino a cadere in terra, punto i piedi contro il letto e riesco ad avanzare mezzo metro. Mi do delle spinte in avanti, non so come faccio, comunque all'inizio non mi muovo. Poi mi rotolo ancora e mi do altre spinte, mi ritrovo sul fianco e mi metto seduta, mani e piedi legati. Salto in avanti finché, altezza dei miei occhi, ecco la maniglia della porta, chiusa. In quel momento il signor Gino De Angelis del piano di sopra ha concluso la manovra di parcheggio e, sacchetto delle medicine in una mano, sta raggiungendo il portone. Sento la porta d'ingresso che si apre e quelli che scappano. Cerco di gridare aiuto ma non riesco. Fisso la porta e non so come aprirla. Poi non mi ricordo. Qualcuno l'ha aperta. Forse io, ma non so come. Nella caduta dal letto mi sono distrutta una caviglia. Sono stata un mese ingessata. Ma perché pensate che comunque mi sarei mossa? Mentre arrivano i vicini di casa, preoccupati per lo sparo, il ragionier Gino De Angelis del piano di sopra ha già superato il portone esterno del palazzo. In quel momento gli assassini stanno fuggendo. Lui, De Angelis, è un tipo attento. Li vede che vanno via con quell'aria di normalità simulata, a passo accelerato, li fissa. Gli passano accanto e lui li guarda in faccia tutti, uno dopo l'altro. È l'unico che li vede. Appena mi libero, corro da Valerio, che mi sussurra: aiuto, mamma. Aiuto, mamma. Mamma, aiuto. Comincio a guardarlo. Mi pare che non l'abbiano colpito. Sono un'infermiera, me ne accorgerei. Ma su Valerio, grazie al cielo, non c'è sangue. Non ci sono fori di proiettile. Però si vede che Valerio sta male. Non so bene quanto tempo dopo arrivano polizie, infermieri, ma Valerio già perde sangue dalla bocca. È in quel momento, sì, quando vedo il sangue che scende sul mento, che capisco tutto. La testimonianza del signor Gino De Angelis, il ragioniere del piano di sopra che veniva sempre a chiacchierare a casa nostra, era quella decisiva. Lui si è messo subito a disposizione affermando di aver visto tutti e tre gli assassini. In quel momento io non sapevo che il signor De Angelis li avesse visti. Io stavo andando all'ospedale, da Valerio. Il signor De Angelis si rende disponibile anche a fare gli identikit. Si reca anche in questura. Proprio una persona coraggiosa, incredibile come una persona che avevo sempre considerato un bravo uomo, sì, ma un po' lamentoso, sia pronto a servire la giustizia rischiando ritorsioni. Certo, avevano appena ucciso un ragazzino. Ma lui, in quel momento, ha vinto ogni comprensibile timore. Ha raccontato tutto, ha fornito gli identikit. Ed è proprio in base a quei disegni, confrontati con le foto segnaletiche, che mio marito sardo riconosce Fioravanti, indagato e prosciolto per mancanza di prove. Alle 8 di sera, io e sardo siamo in casa. Ci sono anche i compagni di Valerio. Continuano ad arrivare. Squilla il telefono, ma io non riesco ad alzarmi dalla sedia. È lì che mi sono accorta che mi faceva male la caviglia. Va sardo a rispondere. È il signor Gino De Angelis, quinto piano, una moglie, un figlio e un sacco di spese. Non ci gira troppo intorno. Dice che era tornato in questura. Aveva ritrattato tutto. Aveva ritrattato gli identikit. Ma perché Gino? Scusa! Il signor Gino, in meno di un mese, ha lasciato questa casa. Se n'è comprata una anche più bella. Come ha fatto non lo so, visto che si lamentava sempre per i soldi. Quel giorno, quando torniamo dall'ospedale, io e sardo troviamo una marea di gente sotto casa. Compagni di Valerio, poliziotti della Digos, gli amici di mio figlio avevano fatto un corteo. C'era stata confusione perché la manifestazione non era stata autorizzata. Io mi ricordo che ero in macchina. Stavo tornando dall'ospedale con questo foglio tra le mani, sul quale c'era scritto che Valerio, lì, al pronto soccorso, è arrivato cadavere. Mi ricordo che leggevo solo quelle tre parole. Tenevo il foglio tra le mani e leggevo che Valerio era arrivato cadavere. Poi ho alzato gli occhi. Ho guardato fuori e ho visto che il quartiere era pieno di manifesti con la scritta «Ucciso dai fascisti il compagno Valerio Verbano. Non basteranno 100 carogne nere per vendicarlo». Io pensai ai 200 genitori di quei ragazzi che sarebbero morti per vendetta. Pensai che si sarebbero sentiti tutti come mi sentivo io in quel momento. Io volevo gli assassini di mio figlio, non altri. Io e Sardo stavamo tornando a casa in due quando eravamo stati sempre in tre. Dopo la morte di Valerio cominciano ad arrivare molte telefonate anonime. Tutte le sigle di quegli anni erano cupe, torbe, cattive. Volevano costruire un mondo migliore e nel prepararlo si davano questi nomi da incubo. Assassino del camerata Stefano Cecchetti. Abbiamo lasciato nell'appartamento una pistola calibro 7,65 che la polizia ha nascosto senza informare la stampa. Figuriamoci. Valerio fece un gran chiasso per dire a tutti che erano matti, che ammazzarlo così era stata una porcheria. Valerio parlò anche a una trasmissione su Radio Onda Rossa. Successe il finimondo quando affermò che era inconcepibile che dei compagni si comportassero così e che sparare nel mucchio era da fascisti. Tra le tante telefonate che arrivarono, alcune erano minacce per noi. Mio marito comprò due pistole. La polizia ci aveva detto di non uscire senza armi. Ma Sardo, quando usciva da solo, non la portava mai. Solo se era con me la prendeva. Anche quando andavamo al cimitero da Valerio. A me sembrava una pena accessoria andarci armati. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Incidenti a Roma tra gruppi di autonomi e forze dell'ordine subito dopo la conclusione della manifestazione indetta per commemorare l'assassinio del giovane autonomo Valerio Verbano. Il 25 febbraio, il giorno del suo funerale, erano venuti in 10.000. Ci sono stati scontri, tanti lacrimogeni, fughe precipitose. Dei funerali mi ricordo solamente che volevo salutare Valerio, e però non volevo lasciarlo andare. Io del giorno dei funerali di mio figlio Valerio non ho ricordi molto dettagliati. Lo volevo salutare, non volevo lasciarlo andare. Gli sussurravo «Buon compleanno, buon compleanno, buon compleanno, amore mio». Mi sono messa a segnare le date su questo calendario del 1980. L'ho aperto al mese di febbraio. La mia ricerca non è stata né lunga né difficile. In effetti ho solo messo insieme tre date. Valerio muore il 22 febbraio del 1980. Tre giorni più tardi il giudice D'Angelo apre l'istruttoria. Il 26 il dossier preparato da mio figlio è sparito. In quattro giorni noi avremmo già dovuto capire e invece ci siamo incaponiti. Abbiamo fatto scrivere una lettera al giudice degli avvocati per sollecitare il reperimento della documentazione e l'identificazione dei responsabili della sparizione di essa. La Digos ne ha una copia, la restituisce al giudice. Ma io l'ho visto quel fascicolo, era alto meno di un quaderno, 20 fogli. Quando l'hanno preso, qui in casa, il giorno dell'arresto, erano centinaia. Io ho dovuto firmare ogni pagina. Mi ricordo che non ce la facevo più e che alla fine scrivevo solo le iniziali. Comunque è evidente che questa inchiesta era, nell'ipotesi migliore, partita male. Tom è stato assassinato. Lo Stato passa alla formazione di squadracci della morte, formata da polizia, carabinieri e fascisti, come è già avvenuto per Fausto e Iaio. Ogni volta che si faceva un nome, che gli avvocati ci chiamavano per comunicarci le novità, io pensavo che prima o poi qualcosa sarebbe accaduto. Poi non succedeva niente. Fino a settembre, in seguito alla strage di Bologna. Di colpo tutti si sono interessati al dossier di Valerio. Paolo Gambescia, sul Messaggero del 20 settembre 1980, scrive un articolo intitolato «Stessa tarpa per due delitti». Il dossier di Valerio Verbano, l'autonomo ucciso dai NAR, che aveva messo insieme foto e fatti, indagando sull'attività dei gruppi fascisti, è costata la vita sia a lui sia al giudice Amato. Il sostituto procuratore è stato ucciso dopo che il fascicolo, scomparso per mesi, gli era stato riconsegnato dal collega che indaga sull'omicidio Verbano. I nomi di quel dossier sono ora nell'inchiesta sulla strage di Bologna. L'organizzazione ha ucciso Mario Amato e Valerio Verbano con sospetto tempismo. La frase pronunciata dagli inquirenti bolognesi nel corso di una delle tante conferenze stampa da sola non dice molto. Eppure, in quella frase, è stata racchiusa la chiave di interpretazione dei misteri del terrorismo nero. Il magistrato e l'autonomo uccisi dai NAR, il primo a fine giugno e il secondo a febbraio, sono legati da un piccolo pacco di carta marrone chiuso con lo spago grosso e sigillato con la cera lacca. Un pacco che scotta e che, passando di mano in mano, ha segnato la condanna a morte di quanti ne hanno preso il visione e il contenuto. Anche dopo questo articolo speravo accadesse qualcosa. Invece nulla. L'inchiesta dura 9 anni. La principale pista battuta è quella dell'estrema destra. Io aspetto. Passano 9 anni. L'inchiesta si chiude nel 1989. La sentenza dice che in 9 anni non sono riusciti a fare niente. Poi un giorno i miei avvocati mi hanno dato una manciata di fogli e ho capito che l'inchiesta partita male è arrivata a cadavere. Però dico, per me è strano che nessuno nell'ambiente della destra abbia mai detto niente dell'omicidio di Valerio. In quegli anni tutti si facevano vanto della violenza, ne parlavano al bar, durante i pasti, era un argomento di conversazione l'omicidio. C'era anche un'altra cosa che qui su Marte io non ho capito. Il giudice istruttore, come sempre in una sentenza di archiviazione, dà disposizione per i corpi di reato. Ecco quello che viene deciso stavolta. La pistola, il proiettile e i bossoli ritrovati in casa mia sono confiscati e spediti all'ufficio corpi di reato, mentre il rotolo di nastro adesivo usato per immobilizzarci, il guinzaglio, il passamontagna e il berretto di lana di uno degli assassini viene deciso di distruggerli. Io non lo sapevo. Qualche anno fa ho visto alla TV un film poliziesco. C'era un caso che veniva riaperto mezzo secolo dopo l'omicidio, perché avevano trovato un capello dell'assassino. Io ho pensato subito al passamontagna, al berretto di lana. Il giorno seguente, alle 8 del mattino, ho chiamato l'avvocato. Gli ho detto, facciamolo anche noi, abbiamo il berretto, abbiamo il passamontagna, dico, un capello ci sarà pure. Mi ha risposto che non si poteva fare l'avvocato. Mi ha detto che il giudice istruttore aveva dato ordine di distruggere quei reperti. Il giudice distruttore. Poi nel 2005 un altro magistrato, Diana De Martino, prova a riaprire le indagini. Lavora sul caso per 2 anni, ma senza dossier e con i reperti distrutti. Però nel frattempo era accaduta una cosa nuova e interessante. Avevano ritrovato un arsenale in una cantina sulla Nomentana. La cantina è intestata a un vecchietto che, mentre fa le pulizie di primavera, scopre tutte queste bombe, questi mitra, questi proiettili. Il cuore non si sa come gli regge. Lui si riprende e chiama la polizia. Quelli fanno delle ricerche e scoprono che intorno a quella cantina si aggirava un fascista, il nipote di uno che abita nel palazzo. Gli mettono il telefono sotto controllo e quello si tradisce. Alla fine ne arrestano 4. Tra questi c'è pure Angelo Izzo, il massacratore del Circeo, che proprio in quei giorni indica come possibile killer di mio figlio Giovanni Marion. Così l'inchiesta si riapre. Mi chiamano, mi convoca questa Diana De Martino, il magistrato. Io vado col cuore che mi scoppia, come una ragazzina verso il fidanzato. È strano come tutto cambi invecchiando. Io ero col cuore in gola perché speravo di incontrare l'assassino di mio figlio. Invece non accade granché. Mi fanno vedere un po' di foto di 30 anni fa. Guardo pure quella di Marion. Non è lui, non mi sembra, non lo so. Insomma, il risultato è sempre lo stesso. L'inchiesta, anche in questo caso, fa la fine di tutto in questa storia di Valerio. Arriva cadavere. Stamattina sono andata a trovare Valerio. Di solito mi metto lì a leggere, sulla sua tomba. Nei primi giorni trovavo sempre lettere, biglietti, scritti di ogni tipo, anche slogan di vendetta. Così ho messo un quadernino e una penna. Quelli che vanno da mio figlio possono scrivere ciò che vogliono. Alcuni fanno dei disegni, altri lasciano poesie, altri solo la firma. Una ragazza che non conosco ha scritto «Aiutami, Valerio». Penso spesso a quel messaggio. Mi sono immaginata che se uno scrive una cosa del genere a un ragazzo morto, forse quella frase gliela diceva anche quando era in vita. Può essere che magari in vita Valerio l'abbia aiutata davvero questa ragazza. Forse dovrei fare lo stesso anch'io, chiedere aiuto a Valerio. Ma noi su Marte siamo abituati diversamente. Per scoprire gli autori di un delitto, ci rivolgiamo ai vivi. Sono felice del fatto che quelli che imbrattano la lapide, che appiccano il fuoco, che strappano la bandiera rossa, non scrivano sul quaderno della tomba. C'è uno spazio nel quale non entrano, anche se è uno spazio aperto. Io e mio marito la storia dello scontro in piazza Annibaliano l'abbiamo letta sull'Unità. Erano poche righe, eravamo a tavola. Hai visto ieri che cosa è successo in piazza Annibaliano? No, vuoi dell'acqua? Dei ragazzi si sono picchiati, fascisti e compagni. Ci sono stati due feriti, pare che li abbiano subito dimessi. Valerio ci aveva detto che si fermava da un amico, come capitava spesso. Invece si vede che era ammaccato e non si voleva far vedere quell'asino. Ci sono stati dei momenti nei quali sono stata assalita dallo sconforto. Mi dicevo, sono quella che ha aperto la porta agli assassini e sono quella che non riesce a trovarli. Ogni tanto veniva fuori qualcosa, ma niente di concreto. Così, una bella mattina, ho mandato tutto al diavolo. Le carte, l'istruttoria, gli interrogatori, gli avvocati, le rivendicazioni, le tracce, i reperti, le menzogne, le sparizioni, tutto. Mi sono seduta sul divano, quello in salotto. Ho cercato di ricordare tutto, ma non i fatti, le informazioni, gli indizi. Quelli li avevo rivisitati milioni di volte. Ho lasciato liberi i ricordi, senza selezionarli. E in uno c'era questa mattina di tanto tempo fa. Io e Valerio soli in cucina. Lui 15 anni, io non lo so. La sera prima avevamo bisticciato, futili motivi. Purtroppo ormai parlo come i verbali degli interrogatori, ne ho letti troppi. C'eravamo alzati quel giorno e in casa non s'era detta una parola. Fuori pioveva. Io e Valerio ci eravamo trascinati in cucina, seduti, guardati. Aveva i capelli tutti arruffati, che già i capelli di Valerio erano così, figurarsi appena alzato. E lui deve aver visto qualcosa del genere in me. Abbiamo cominciato a ridere. Io mi sono alzata per preparare la colazione. Valerio ha guardato il suo cappuccino, poi mi ha fissato e mi ha fatto una linguaccia, la faccia di un bambino di 7 anni. Così mi ha fatto sorridere di nuovo. E senza che accadesse nient'altro, senza un perché, abbiamo fatto colazione in silenzio. Ogni tanto qualcuno alzava lo sguardo verso l'altro, accennava un sorriso. E così quel giorno, seduta sul divano di casa, sembrava non dovessi più smetterla di ricordare cose così, piccole piccole. Bisogna immaginare la storia di Valerio Verbano come un puzzle, mi hanno sempre detto. Mancano dei pezzi, ma noi li troveremo. Sì, sì, così mi dicevano. E anch'io all'inizio, quando ho cominciato a lavorarci su, ho pensato che mancassero dei tasselli per completare il puzzle. Una mattina ho spento il computer. Sarà fatta l'ora di pranzo. E però non avevo voglia di mangiare. Mi sono seduta dove è morto Valerio. Anzi, dove Valerio ha trascorso gli ultimi minuti della sua vita. Gli ultimi istanti. Mi sono venute in mente le date. Sono così tante, ogni data un morto, ogni morto una famiglia distrutta. Pecorelli, per esempio, uno che lavorava sulle inchieste, anche sul dossier Moro. Lo ammazzano nel marzo del 79. Un mese più tardi hanno arrestato Valerio. In quel momento mi è tornata in mente quella sensazione, ciò che provai quando fu condannato. Bisogna ricordare la sentenza per capire. È impressionante la cura che questo giovane ha messo nel raccogliere nomi e fatti che riguardano elementi di estrema destra, ma non si è limitato solo a schedare nemici politici, ha raccolto altresì nomi, indirizzi e spesso foto di personaggi politici e di appartenenti alle forze dell'ordine. Era maggio in quel mese, Roma è meravigliosa, piena di luce. Ma in Italia in quel periodo accadevano cose buie. Mi è capitato di leggere I ragazzi di Malavita di Giovanni Bianconi che quelli della banda della Magliana erano in grado di ottenere documenti delle inchieste in corso e sapere in anticipo ciò che i poliziotti e i magistrati avevano in mano. Arrivavano dai cancellieri ed uscieri adeguatamente ricompensati o dalle talpe nascoste negli uffici di polizia. Figurarsi una sentenza come quella di Valerio in quegli anni che rumore fa. E così mi sono ricordata quella sensazione di quel giorno di maggio, di quando mi sono sentita come se lo avessero condannato a morte, Valerio. Che sensazioni può avere una madre, eh? Me ne sto quasi sempre in casa, sola, davanti al computer. Scrivo, faccio domande, aspetto risposte. Cerco tracce degli assassini di mio figlio. Aspetto gli assassini di mio figlio. Via Montebianco 114, quarto piano, uscendo dall'ascensore a sinistra. Ma tanto la strada la conoscono. Qualcuno verrà, forse solo uno di quei tre, ma so che verrà. Sensazioni, certo. Gli devo dire una cosa quando sarà. Dico, ho quasi 86 anni, sono alta 1,50 m, peso 49 kg. Di che cosa può aver paura l'assassino? Se sono armata? Sì, in effetti tecnicamente una pistola ce l'ho. Solo che l'ultima volta che ho fatto ridipingere la cucina qualche anno fa, l'imbianchino ha dato la vernice su tutto, anche sulla cassaforte. E poi prima di andarsene mi ha detto, ah signore, ma scusi, la cassaforte ho dipinta, ci ho passata la vernice, mo lei piano piano con uno scarpellino ci fa i bordi e poi si ripiega la pistola. Una volta la pistola però l'ho usata per davvero, tanti anni fa, pochi giorni dopo l'omicidio di Valerio, quando in casa nostra venne Nanni De Angelis, venne a parlare con me e mio marito, a farsi guardare in faccia da noi, così almeno credeva lui, così almeno credevamo tutti. In verità io non lo vidi neanche, spaventata com'ero. Quando bussò alla porta mi chiusi in camera, mio marito lo accolse e lo fece accomodare in salone. Io ero sul letto, sdraiata. Niente poteva ridarmi Valerio. Dopo qualche minuto mi sono alzata, sono andata in cucina e ho preso la pistola. Avevo già deciso tutto quando sono uscita in balcone. Da lì ho camminato fino a raggiungere la porta finestra del salone. Sono arrivata fin dietro al vetro, fin dietro alle tende. Poi mi sono fermata. Vorrei dire un'ultima cosa. Nel rapporto su mio figlio, che per anni è andato in Vespa con la sua macchina fotografica a tracolla, c'è scritto che le fotografie sono tutte sfocate e indistinte per un errato uso della macchina fotografica. Strano, erano anni che andava in giro a fare fotografie, quelle del dossier si vedevano tutte, stavolta invece no, tutte buie. Deve essere che Valerio quel giorno è riuscito a fotografare il futuro, non il suo. Quello di tutti. Questo è il reading Rosso Vivo dal libro Sia folgorante la fine di Carla Verbano con Alessandro Capponi, di e con Alessandra Magrini, con la collaborazione di Marco Capoccetti Boccia. Con Tiziano Panici per parlare del progetto, dell'iniziativa Il Teatro di Domani. Tiziano, ben trovato. Ben trovato a te, Fede. Mi fa molto piacere sentire te e Radio Onda Rossa attivi in questo momento. Eccoci. E raccontaci di quest'idea. Nasce da una riflessione in realtà. Ho accompagnato con un videomessaggio il comunicato di chiusura del Teatro Argo. Avevamo le ultime attività in programma a maggio, abbiamo aspettato come tutti di capire in che modo evolvesse la situazione, capire se appunto ci sarebbe stata la possibilità di recuperare, di riaprire. Tra l'altro dovevamo chiudere con una rassegna dal titolo Over, che è dedicata proprio ad emergenze teatrali, ma la realtà è che insomma quello con cui tutti ci stiamo scontrando e di cui tra l'altro se ne sta discutendo anche in questi giorni è sia ancora quanto durerà la fase emergenziale, sia quali saranno poi i postumi di tutto questo. E ragionando su cose molto pratiche, quindi sull'impossibilità di fare una campagna di comunicazione per la rassegna, poter stampare il materiale cartaceo, chiedere chiaramente determinati servizi che in questo momento sono bloccati, ma in realtà anche la possibilità di ospitare le compagnie, sapendo che alcuni degli artisti venivano chi da Marsiglia, chi da Milano, chi da Padova, quindi da zone rosse, era impensabile poter mantenere questo impegno. E mi sono trovato di fronte alla certezza di dover chiudere la stagione, e quindi era giusto anche darmi una comunicazione lucida, reale, efficace. Da lì però anche chiedersi come si potrà ripartire, perché i luoghi di aggregazione, non penso solo ai teatri, penso anche alle palestre, alle piscine, alle piazze, saranno chiaramente spazi che ancora per lungo tempo dovranno applicare delle misure di sicurezza, e questo per una sala particolare come la nostra, che è un teatro off, che è uno spazio di ricerca, una palestra, un laboratorio teatrale, chiaramente rischierà di impedirci la possibilità di fare programmazione, cioè di programmare spettacoli di teatro dal vivo. Questo anche in funzione del fatto che le nostre economie non permetterebbero né a noi né alle compagnie effettivamente di poter riuscire a sostenersi, a sostentarsi. Allora che fare? Restare chiusi? Ovviamente la nostra risposta è no, non è nei nostri piani, non è nei nostri obiettivi. Abbiamo deciso di utilizzare maggio e giugno come mesi lavorativi, perché mi auguro che ci verrà consentito almeno di poter tornare nello spazio Argo per utilizzare gli uffici. Diventerà immediatamente uno spazio di progettazione, quindi lavoreremo a quello che sarà un nuovo programma della stagione, però anche chiedendoci quali potranno essere i nuovi interventi e in che modo appunto potranno essere applicati. È molto importante questa riflessione in questo momento, a mio avviso, me ne sono reso conto proprio, ne ho preso atto scrivendo il comunicato e mandando appunto poi questo messaggio a me stesso. Molti me l'hanno chiesto, dice, ma è un messaggio che parla del tuo, il te del passato parla al te del futuro, ma il te del futuro già sa cosa è successo. La risposta è sì, è vero, ma non sa ancora cosa si immaginerà. Sarà prezioso probabilmente per lui ricordare quello che sta succedendo in questo momento, ricordare questi ragionamenti e ricordare l'emergenza in cui ci siamo trovati. E questa è anche una chiamata al contributo di tutte e tutti, con dei video. Ci racconti? Ripeto, è nato molto spontaneamente nell'idea di poter raccogliere questi messaggi dal passato che ci potranno tornare utili per il futuro. Quindi abbiamo aperto una casella mail, argot.ilteatrodidomani@gmail.com, che diventerà, diciamo, un nuovo raccoglitore prima di tutto di proposte. Quindi mi auguro appunto di ricevere proposte che non siano spettacoli da programmare, perché altrimenti ci sarebbe un fraintendimento nel messaggio, ma piuttosto quelli che potrebbero diventare dei programmi o dei progetti realizzabili. Tu che da tanti anni frequenti la registrazione teatrale, la trasmissione anche di quello che in qualche modo possiamo definire, no, la forma del dramma, e così come la radio, sai perfettamente per esempio che chiaramente non si parla di una fruizione live, ma allo stesso tempo sono strumenti importantissimi di raccolta, di trasmissione e di comunicazione. E da questo punto di vista faccio un esempio: abbiamo da poco scoperto per la prima volta che già da 10 anni avevamo la possibilità di farci le videochiamate e di appunto tenerci in connessione nelle parti più disparate del mondo, però abbiamo iniziato ad applicarlo solo quando ci siamo trovati in questa dimensione. Quindi è vero che da una parte terrorizza, spaventa molto l'idea di non poter fare il teatro dal vivo e che il mezzo digitale, il mezzo mediale non possa essere una risposta sufficiente, però invito anche a pensare, a riflettere che in questo momento invece ci ha proprio consentito di tenerci in contatto, di diffondere dei messaggi, di ragionare tra di noi. Quindi anche questo mi ha dato molto da riflettere. All'inizio ero spaventato da tutte queste esecuzioni in live, quindi sì, mi piacerebbe molto che anche altri operatori, altri attori, altri colleghi potessero rispondere al messaggio chiedendolo però a se stessi e a tutti in che modo possiamo immaginarci nuove forme che in questo momento sono importanti, sono necessarie, e attivare secondo me la creatività e la fantasia e anche il dialogo e la riflessione è anche un privilegio in questo momento che non va sprecato. Pensavo già anche a un altro elemento proprio del digitale, che è quello della memoria. Trasmettendo in radio gli audio degli spettacoli, ma anche adesso pubblicando online quotidianamente un lavoro d'archivio, mi rendo conto che chi a suo tempo ha filmato uno spettacolo teatrale, di quella rappresentazione c'è sì il testo scritto, ma c'è anche adesso una memoria filmata che per fortuna può essere valorizzata. Assolutamente, infatti mi riferivo anche a questo quando stavamo parlando prima, cioè è un tipo di lavoro che può essere svolto in diretta, ma il tema dell'archivio per il teatro è uno snodo importante a mio avviso, E ci stavo ragionando con una mia collega ormai da tanti anni, che è Emanuela Giusto, fotografa di scena, che ha fatto per l'Argo un lavoro precisissimo di documentazione di spettacoli, e prima che partisse l'emergenza ci siamo ritrovati anche a contare gli anni che sono passati nella nuova gestione dell'Argo. Ormai siamo a 10 anni contati, cioè quest'anno l'Argo di nuova generazione compie 10 anni, io e Francesco Frangipane l'abbiamo traghettato fino a qui insieme a tantissimi colleghi, amici, operatori ed artisti, e il racconto di questi 10 anni non l'abbiamo mai storicizzato e non l'abbiamo mai valorizzato. Emanuela ha approfittato di questi giorni appunto di quarantena per esempio per riordinare l'archivio fotografico. Il suo è un lavoro da artista, tra l'altro, e quello che faremo per esempio nei mesi di progettazione di maggio e di giugno, inizieremo a lanciare anche con questo nuovo progetto, è già la nostra fase 2, diciamo, cioè con Manuela siamo d'accordo di creare, come si sta facendo per i musei, una piattaforma mostra dedicata ai 10 anni dell'Argo come memoria virtuale, ma che permette anche di ricostruire dei momenti importanti, perché comunque il laboratorio di Argo in questi 10 anni ha anche prodotto, ha ospitato e ha osservato una serie di artisti che oggi sono diventati dei punti di riferimento per la scena contemporanea. Penso a Latini, penso a Elena Arrigo, penso ad Andrea Baracco, allo stesso Antonio Latella, che in qualche modo nell'ultimissima fase prima di diventare regista è stato attore nelle produzioni di Argo. E oggi stiamo parlando di nuovi maestri in qualche modo, penso a Licia, alla Nera, quindi insomma c'è tanto da raccontare di questo tempo speso per la ricerca teatrale. In chiusura, Tiziano, ci lasci tutti i riferimenti di nuovo? Assolutamente, argot.ilteatrodidomani@gmail.com è l'indirizzo a cui inviare le vostre proposte. Ovviamente i video possono essere anche direttamente linkati alle nostre pagine Facebook e Instagram. I ragazzi di Teatron da quest'anno ci seguono nella comunicazione. Teatron 2.0 è appunto una squadra che sta lavorando sul servizio e la comunicazione teatrale, lo fa dire molto bene, e in questo momento ci stanno aiutando e supportando nella risposta e nella comunicazione verso l'esterno. Quindi utilizzate tranquillamente anche Facebook e Instagram, taggateci e potete usare anche l'hashtag Il Teatro di Domani e mandateci le vostre proposte, mettetevi in contatto e in dialogo con noi, ne abbiamo tutti veramente molto bisogno in questo momento. Il Teatro di Domani, un saluto e un ringraziamento a Tiziano Panici, un abbraccio, un in bocca al lupo e a prestissimo. Grazie Fede, grazie mille, un abbraccione grande a tutti. Con Igor Mattei di Ad Arte, Calcata Cine Teatro Festival, per presentare il progetto di streaming Emergenze Creative. Igor, ben trovato. Ciao Federico e ciao a tutti i radioascoltatori. Eccoci qua, di nuovo, in questa nuova situazione, nuova per tutti. Ci ritroviamo, Federico, a parlare sempre del nostro festival, di Ad Arte Festival, che devo subito precisare, dalla prossima edizione, ammesso che questa nuova edizione ne si farà come noi ci auguriamo, non si terrà più a Calcata. Per chi ci conosce già, ci tengo a dire che, a raccontare brevemente il fatto che l'ultima edizione, che doveva essere la sesta lo scorso anno, purtroppo non ha avuto poi seguito a causa di mancati finanziamenti e di non trovati accordi con il comune che ci ha ospitato per 5 anni e appunto a Calcata. E quindi, venendo a mancare un patto, diciamo, di fiducia, ecco, di reciproca collaborazione, ci è sembrato di aver raggiunto il massimo che ci è stato concesso raggiungere nel comune sopracitato, e quindi, caro Federico, emigriamo, facciamo i nomadi, ma d'altra parte il nostro festival di teatro e cinema emergente indipendente Made in Italy è in qualche modo nomade dall'inizio, in quanto autoprodotto, indipendente e così via. E quindi abbiamo individuato già una nuova sede per il nostro festival, che non svelerei ancora perché ci sono troppe variabili da qui a quando prenderà vita la nuova edizione, ma comunque all'interno del territorio della Tuscia Viterbese, come è sempre stato realizzato in questi primi 5 anni, in queste prime 5 edizioni. Ok, e allora parliamo di questo palcoscenico virtuale che avete lanciato. Sì, noi Federico, come al solito cerchiamo, un po' per natura, un po' perché abbiamo sempre dovuto far fronte in quanto indipendenti alle avversità supplementari che si incontrano nella realizzazione di una manifestazione come la nostra, stiamo cercando anche in questo caso di cavalcare l'onda, di trasformare, come si suol dire ormai, il problema in risorsa. Non volendo starcene con le mani in mano ad aspettare che i teatri riaprano, che le sale cinematografiche riaprano, che noi si decida o si ufficializzi questa nuova edizione, abbiamo pensato di aprire la nostra pagina, la fanpage di Facebook del nostro festival, a tutti gli artisti che ci conoscono già, quindi tutti coloro che sono stati già presenti nella nostra manifestazione, e anche ai nuovi che ancora non ci conoscevano, che ancora non erano stati nella nostra manifestazione, perché questa pagina si trasformasse, come è stato un po' il festival fino ad oggi, in tante piccole arene cinematografiche, in tanti piccoli palcoscenici teatrali. Noi abbiamo chiesto quindi a tutti gli artisti di inviarci delle clip, ecco, brevi, non troppo lunghe, diciamo, di qualunque tipo. Faccio brevemente una lista: reading di teatro, di narrativa, anche di sceneggiature cinematografiche, oppure considerazioni d'artista che noi di volta in volta prendiamo, ovviamente selezioniamo, perché comunque ci è arrivato come al solito una valanga di proposte, e selezionandole poi le mettiamo di volta in volta sulla nostra pagina, e stiamo avendo una valanga di visualizzazione. In qualche modo stiamo facendo l'operazione, poi Federico, che abbiamo fatto in questi anni con il nostro festival. La nostra mission, il nostro obiettivo è stato sempre quello di sostenere e di valorizzare, di dare visibilità a quegli spettacoli, a quelle pellicole cinematografiche che non hanno visibilità come meriterebbero per motivi di indipendenza, autarchia e via dicendo, nel mainstream non hanno visibilità, e quindi come nel nostro festival facevamo, davamo visibilità a queste realtà, così nella nostra pagina vogliamo dare visibilità a queste realtà che diversamente rimarrebbero escluse anche questa volta, non per mancanza di merito, ma per mancanza probabilmente di contatti, rimarrebbero escluse da quelle iniziative che pure sono numerose e che comunque vanno a guardare molto alle realtà o consolidate o realtà, come dire, blasonate. Ecco, noi abbiamo anche i nostri testimonial, comunque insomma, che ci stanno dando le loro testimonianze, ce le stanno offrendo. Abbiamo avuto Leo Bullotto, che comunque ha mandato una sua bellissima clip, fa due grossi per la regia teatrale, Pino Strabioli, Passari e tanti altri che si stanno aggiungendo, tra i nomi insomma più noti e più popolari, ne sta andando veramente alla grande, e unitamente a queste persone e a tanti altri nomi più popolari che pubblicheremo a breve, ne stiamo pubblicando invece tanti altri di clip di artisti più o meno noti, più o meno di lunga esperienza, e che stanno facendo veramente un'incredibile impresa di nuovo, seppur virtuale, rispetto a quella che, insomma, che tu conosci, che facevamo con il nostro festival. E allora in chiusura ci lasci tutti i riferimenti? Inviare quindi una clip, come detto, in posta privata sulla fanpage di Ad Arte Festival. Semplicemente questo, una clip in privato sulla nostra fanpage di Ad Arte Festival. Questo per quanto riguarda lo streaming Emergenze Creative. Un saluto e un ringraziamento ad Igor Mattei. Un abbraccio, un in bocca al lupo, e a presto, Igor. Grazie Federico, e grazie a tutti voi, grazie. Ciao, un abbraccio. Un abbraccio. Con Daniele Timpano del Vira Frosini, della compagnia Frosini Timpano, per parlare della loro iniziativa Indifferita, teatro italiano contemporaneo ai tempi del coronavirus. Ben trovati. Ciao. Ciao Federico, ci siamo tutti. Ci presentate quest'idea? È contemporaneo.